Vi siete ispirati al lavoro già svolto da qualcun altro, grazie, oppure in qualche maniera così avete visto che magari su Milano, visto che qua che prevalentemente operate, c'era bisogno proprio di portare avanti un'iniziativa adatta a questa città? Noi ci siamo ispirati per quanto riguarda gli swap party a ciò che avviene negli Stati Uniti ormai da 15 anni e in Australia da 10. Quindi quella formula l'abbiamo importata dall'estero, ovviamente abbiamo dovuto adattarla alla mentalità e al costume italiano che è molto meno easy di quello americano o australiano, e la cosa invece unica che abbiamo fatto per ora in Europa è quello di non limitarci lì, di non limitarci a quello, cioè di espandere il concetto a tutti gli altri settori, quindi dicevo prima il design con le sue parti che abbiamo organizzato in triennale a Milano, ma poi continuo scambio di oggetti di design che viene fatto all'interno dell'Eco Concept Store e poi tutte le altre, gli altri tasselli dello stesso grande puzzle che è l'ecosostenibilità. Grazie, dobbiamo salutarci, ma dopo i viaggi e le vacanze barattate avete in mente, visto che l'estate è ancora piuttosto lunga, di organizzare qualcos'altro di originale? No, adesso abbiamo un altro swap party che faremo a Como, quindi una cosa molto vacanziera, e poi ripartiremo in settembre con la grande kermesse della moda. Benissimo, e allora magari ci risentiremo in quell'occasione. Per tutte le informazioni che riguardano la vostra attività, per chi fosse interessato, avete un sito internet? Sì, ne abbiamo due, uno è www.atelierdelriciclo.it e l'altro è www.urbanswapparty.it. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti.